la ti sento già. Come la radio? Non mi piace. Brutta. E sto anche innescando. Ora non più, ma non capisco perché sto facendo così. O meglio questo microfono che fai. Guarda un po', adesso 1, 2, 3, prova. Sì, adesso va bene, però la radio non è forte. Aspetta. C'è il vento, sta rompendo le balle dell'antenna. Ancora da bella. Esce, non esce, ma se appena ho votato l'aria, no, non li faccio di nulla a me, capito? Addio, vediamo un po'. Ma passa appena appena lui. Stavo chiamando. Aspetta un attimo, solo, e l'accendi la maglia, solo faccio una prova. Aspetta un attimo. Oh, aspetta, mi sono alimentato da qua. Oh, aspetta. Ma non si accende la spia della batteria, Dani? Mi sa di sì, guarda che dietro c'è un tastino, mi. No, sa c'è. Un tastino per ancora sempre. Per accenderlo. Non ho fatto nulla. L'altro modulometro non si muove. Capa, il bip è quello lì. Ma quel microfono bip non ne ha. C'ha l'eco e la modulazione. No, c'ha anche il bip, sì. Prova a schiacciare il pulsante al contrario. Guarda un po'. È innesca questo momento. Prova a metterla a 5 come ce l'avevo io, Lu. A 5 è innesca. No, è innesca. Sta innescando. Strano, eh. Molto strano. Stazionale sicuro che non è ho, non è ho. Questo più che sicuro. Aspetta, faccio la prova con quello normale. No, questo è quello normale. 1, 2, 3, prova radio, prova radio. Oh, Lu, sono messo in tasca quello là. Oh, tu cosa dici, Antu? Oh, questo normale è una bomba, eh. Ma che è meglio, questo qua o quello l'altro? Questo normale. Buh, tu cosa dici, Dani, è meglio l'altro? No, questo qua è più forte. C'è una radio impressionante. Questo qua è quello normale mio, me. Ehi, con questo esci perfetto. Sei in radio Super 5. E invece quello là no. Ma con quello là non ti dà spinta. Eppure era parecchio, guarda, ti dimostro che metto la MB più 4, che l'ho a casa e spinge alla grande. E quello, questo qua era accoppiato con la MB più 4. Solo la MB più 4 l'ho messo nel 2009. Ciao Natali! Ciao Antu! Comunque Lu, decidi tu, se no facciamo il contrario. Dani, se ti chiamo, ora. Ok. Vabbè Natali, come stai? Già sono meglio. Kappa, dai. Cosa sei che c'è un zocco? E a zocco? Senta, ma deve essere qua in zona a rompermi le scatole. Kappa, c'è qualcosa nell'aria. Sto a posto. Tutto fatto, Antu, tutto fatto. Mi fa piacere che ti sento. Mi fa proprio piacere, ma sono contento. Kappa. L'MB più 4 è sempre qua a me, mi ha tanto un tratto. Un amore è quello lì. Te credo. Kappa. E tu che fai? Ti sei ripreso? Stai uscendo? Cosa sei vende? Nuda, oggi è freddo, avanzino mi sembra, sono finito. Kappa, dai. Io ogni tanto. Non sono nelle condizioni migliori, però sono stazionarie, cioè, a posto zero, è accurciato. Hola. Questa la radio com'è, Antu? Buonissima. Kappa è a voglia, c'è 950 radio Super 5. Fa piacere. Vabbè, vicino sì. Lo so, noi siamo vicini. campagnata, vai. Ui, ui, ui. Mamma mia, manco Rigani quello che ho passato stanotte, cazzo. Adesso piano piano sto cominciando a stare meglio. Cazzo, raffreddato, non mi intendi a lei. Ui, ui, ui. Manco Rigani. Sì, ti passi che hai pigliato freddo. Ehi, perché era raffreddata a Sara, poi me l'ha condito a me. Sì. Allora io si vede a conto, come si è fatto concesso a me la cravista. Le giunte si è abbassata l'influenza, passa e la casa viene a me. Sta allucinante qua. Allucinante, speriamo di stare bene. Speriamo bene qua. Però la colpa è tua, perché hai dormito con i piedi fuori dalla coperta con me. Non dormo io col figlio fuori dalla coperta, poi qua c'è caldo. Freddo non venne a Natali. Sì, cantevi pure ai biliardi per me. Pure sì, ma qua no, non è un problema qua. Andava e io dai. Vabbè dai, Antu, ci sentiamo. All'inizio stasera se ci sei. Ehi Natali, mi ha fatto piacere sentirti qua. Ma da parecchio che non ti sentivo. E anche io. Ma io sono andato, mi hanno operato e la sera ero a casa. La sera mi hanno dimesso. Meno male, cavolo. Sì, infatti, non... Praticamente mi devo riprendere, da. Piano piano, da. Un passo alla volta, se no, oioia. Sì, infatti, l'importante è che ho fatto tutto, almeno posso andare tranquillo. E infatti me l'ho detto l'altro giorno, mi è dispiaciuto che sei stato male. Sì, va male, però. Vabbè, là. Ci sentiamo, Antu, alle prossime, grazie per il QSO. Ok, Natali, no, mi ha fatto piacere a me. Ok, ci sentiamo, vai! Ah, va, ciao ciao! Ciao ciao! Buongiorno, va, ancora siamo di lì. Cazzo. Ho visto l'antenna tua. Lì sarai. Non è il radiale, giusto? Zero. Da che parte sei passato? Ora il cappuccino sono sceso giù. Ehi! Abiti vicino a mia nipote. Sicuramente. Michela, Massimo, il marito. Buono. Allora, se li vedo, non me lo ricordo. Capito? Se li vedo, dico, quelli. Allora, abitano nella via che va a finire a Ponte Vita. Capo. Allora sono un lì, dai. Facciamo la baracchina, ne fa. Mai avuto baracchina loro. Tu ce l'ho fatta a Bobino, e da lì. Tempo fa. Capo. Ma tu invece non c'era un parente qua, c'era un baracchino. No. Ma abiti vicino a mia nipote, praticamente. Sicuramente. Io non è che conosco molta gente, perché qua sembra che facciamo 6-7 mesi che ci siamo. E comunque è bassa l'antenna tua, Ma si tira giù di tu, è bassa la zona, è bassa l'antenna mia. Ma devo salire, mi devono buscare il palo. Anda bene. Ti è toccato la carrozza con lo piccino e calzini. Ma visto che come arrivi, cioè io sono nella discesa proprio, cioè un po' di palo ci vuole, perché non è che sia alta. E stampa. Sì, l'ho vista. Aspetta, che mi ha tolto. Ho visto qualcosa di rosso, forse. Nel palo c'è il nostro isolante rosso. Stampa. L'ho messo io. Adesso mi devo buscare un altro pezzo di palo e non devo salire più su. Mi basterebbero un paio di metri e sono penso che sia a posto. Perché quello è il tanto che mi manca, mi pare uscire un po' più forte. Sì, se la metti un bel palo da 4-5 mesi c'è una bomba. Infatti. Sì, io metto che c'è 8 metri. Questo Pinocenti da un pollice a 4. Metto una bomba. Con l'antenna per una matola 5. Cappa. Non mi posso lamentarmi, pago con te. Ma anche troppo forte qua. E com'è me? Già ti fai sentire, dai. Cappa, 1-1 di stazione aria ciò. E io poco si muove che. Dovrebbe essere 1-1 lo stesso, perché il mio poi è 1-1. Ehi, così è. Quando dici così è, dici sia così è. Cappa, così è la frattura. Quando piove appena, ma non rimane di nulla. Vabbè, lo stesso. Vabbè, poco si muove. Niente, non vedo l'ora di sistemare sotto la stazione, qua non ci capisco più nulla, neanche troppa roba che mette le mani. Devo tutto rinviare, rifare da capo, passare il mobile. Uragai, ma piano piano, non c'è da fretta. Venga, prima il dovere potrebbe essere, prima guardo la mia salute. Vabbè, e passiamo. Praticamente io sto andando tutta l'antenna, mi faccio 6 metri solo di cavo, non ne ho di più. E poi sto utilizzando l'H500 già cavo, non mi aumentava. E io ho 60 metri di cavo, chiaramente mi mancano i 40 metri. Appunto, che praticamente io ho tutto l'antenna, cioè non ho dispersioni, capito? Non uso neanche il RC58, uso l'H500, come cavolo si chiama, 50, 500, non me lo ricordo adesso, va. 155. Bravo. Riccio, e c'è doppia calza. L'H155 uso. Ehi, come tu sei trattenendo? Ma io con l'opera, ce l'ho ancora qua. Arrotolata, nuova al capo. Quando piazza la mano 1, piazza questa, c'è la mano 5, piazza questa. È ottimo. Dai che mi guardo la cannuzza, ti sto facendo anche 7 fettine di pancetta sempre per il cane. Te le faccio pure pezzettini, io lo trovo bene i cani. Cappa, che pezzo burate, no? No, non mi piace la pancetta, è troppo grassa, no. Solo per il cane basta. C'ho 2 usci buchi con la carne attaccata più faccetta, se tiene faccetta, se le faccio a pizzo, se faccio sai quanto è cotta, e glielo do loro, così hanno il mangiare. No, oh, vai a capire i miei piatti, nonno, dammi la vedere. Sì, anche lo so. Lui, Cappa! Guarda, mi piace. Avanti, oh, ma, Rani. Mi sono sistemando un pochino di cose qua. Vai, vai, io vi sto ascoltando, no, non ti preoccupare. Ah, ci vuoi dire un buon ragione a metà, dai. Ciao Dani, fate la voce, io devo allontanare per dare il suo cazzo al cesso, che è scucciato la carrozza, non lo dico, dai, a dopo, tanto. Sì, ciao, vai, vai a cucinare tranquillo, sennò poi i cani morire di fame. Cappa, vai, vai, non c'è problema. E beh, Dani. E allora, dimmi tutto, cosa c'è? Qui c'è il microfono. Aspetta, quale? Io c'ho sa Delta. Gliel'ho dato, però come l'ha messo innesca, come la portante innesca. Strano. Molto strano, perché lui c'ha uno di stazionaria, c'ha. Sì. E non dovrebbe innescare. No, ma è anche il modulatore che come lo solleva va a innescare. È molto strana la cosa, ce l'avevo nel Galaxy, era tranquillo, no, proprio silenziosissimo, non innescava né niente, boh, strano, non lo so. E allora non si accoppia bene con la radio, sicuramente. Infatti mi sembra troppo strano, magari non è compatibile con quella radio, infatti. Cappa, aspetta un attimo, mi stai facendo una cosa a Sara. 2 secondi. Eia, eccomi. Cosa ti ha detto? Cosa aveva a mangiare? A mangiare già lo sappiamo, spaghetti all'olio. Ah, mi posso anche autoevitare, da. Ma Savini? Che mi mangio spaghetti io. Ma non è problemi, no, Pino. Boh, io non lo so ancora. Cappa, qua oggi ho deciso così. Amore, uno fermo, ga. Andato già andare in vetta. Poi andare nel sito. Non me l'ho passata tanto bene questi giorni, mamma mia, sto male. E cosa c'hai? Armagliardo gioco e c'ho mal di testa forte. Mal di testa forte? Si dice raffreddato, mal di testa forte. Ma non è che vai la brasiliana Borodunno, ha detto. Ah, la brasiliana! Allora ero brasiliano? No. Mannaggia, no. Già mi basta la mia donna, non ha bisogno di chissi. Lo brasiliano da Reggio vai, così è. No, mannaggia i brasiliani, no. Allora, Giussinca. Che c'è Sarisa. Ah, era già Sarisa vai. Cappa. No, ma stavo ultimamente con questo coso di mal di gola, mal di testa, è allucinante. Anch'io la settimana scorsa ero con appena di mal di gola. E meno male mi è passato, ma anche subito mi è passato. No, a me mi ha dato un mettendo di fame, tende, mamma mia. Un pochettino, adesso mi sto cominciando a stare bene da quest'ora in poi, se no ero grimato, tutta la notte senza dormire. Già me lo posso immaginare. È brutto me, quando stai male, non riesci a dormire, quanta dolori. Appunto. Abbassiamo un po' caretto i nocchi, se no. Ola, già va bene. Se no che c'è goggia, oioia. E cos'è abbassato? È un poco di potenza già abbassato. Perché a quanto stai uscendo? No, adesso va bene, 40 watt. Prima era 100. Sempre alto sì. Non è che devi uscire a Cagliari. No, stai oscillando 90-20, 90-30. 9-20, 9-30, vero? no, ma perché ho girato un po' meno di potenza. E se noi ci aggoggiano non va bene, no. Uscire troppo forte non va bene. Solo quando ha attaccato l'amplificatore. No, io senza attaccare l'amplificatore viaggio direttamente con la radio. Se con l'amplificatore mi tocca abbassare il market game. E non ne ho voglia attaccare l'amplificatore. Quello che ho io è già un pochino più massiccio. Cappa cappa. Così è. Intanto c'è l'attacco 747 attacco. Va bene, cavolo, un amplificatore va, è una meraviglia, va. No, ma io senza collegare l'amplificatore già sto bene lo stesso. Tanto siamo qua davanti, non è che dobbiamo uscirci chissà dove. Rimaniamo qua davanti e siamo fra di noi. Vabbè, certo. No, vabbè, ogni tanto un attacco per farlo andare, capito? Ah, per togliere un pochino di corrente vecchia, così è. E allora, io sai che va non va bene, e a me mi va bene. 747 non va bene come amplificatorino. Non satura niente, perché io poi le metto i watt giusti e spinge. A 5 watt devi metterlo, basso, e spinge che è una meraviglia. Sì, ma anche lo strumento ho qua, quindi già uso con cartuccio. Ah, c'hai tutto quanto lì davanti. E allora, già in mezzo all'avanguardia, già me l'ho fatta una bella fazioncina, come ce l'avevo una volta. Una volta c'avevo il doppio di questa roba, però questo non ce l'avevo. C'avevo il doppio di questa roba, ma via un amplificatore importante, ce l'avevo. Adesso piano piano me l'ho rifatta. Ah, io lo stesso, io ho l'analizzatore, il rosmetro, l'analizzatore ogni tanto lo collego per vedere se l'antenna è perfetta, il rosmetro, la radio, il commutatore elettronico, il commutatore normale, tutto quanto qua davanti c'ho, l'alimentatore c'ho sotto i piedi, la colonnina ce l'ho qua davanti all'altezza degli orecchie, c'è tutto quanto qua davanti anche io. Capo, no, anche io già così lo stesso, c'ho due alimentatori, c'ho switching, poi c'ho un alimentatore normale, ne ho anche un altro, no, ma l'ho tolto perché non mi occorreva. No, BB+5, 87, no, portatile, di tutto faccio. Però quando fai i passaggi belli lunghi ogni tanto sparisce la voce e poi riappare così all'improvviso. Come sparisce la voce all'improvviso? Ora. Vai a vedere, adesso così lo fa. No, adesso non l'ho fatto, però poco fa l'ho fatto quando stavi parlando della radio. Non lo so, no, forse non l'avevo premuto bene io. Ora, vedi che già sta andando. Magari ti è sfuggito il pulsantino, il PTT. Comunque, te ne ho premuto bene. Ci pongo un lock e dovrebbe andare bene, vedi? Brecco. Avanti col brecco. Buonasera a tutti, Marco. Ciao Antonio, ciao l'altro amico che non ho riconosciuto. Antonio, la modulazione è normale? Non sono saturo? Assolutamente no. Un po' amplificato ma non saturo. Eia, stavo provando un'ennesima combinazione apparecchio più altra roba. Eia, rilancio l'altro amico che non ho riconosciuto chi è, ma Danilo per caso? Sì, Danilo da questa parte. Buona, anche per te buona modulazione, vedi un po', 1, 2, 3, 4, 5. Sì, 9.30, radio 5, buona, buonissima. Va bene, riprendete, dai. C'era anche Torino prima, era acceso qua, poi mi sono allontanato. Dai, io vado in bagno e vi ascolto. Vai Antonio. Cazzo, bella la modulazione, complimenti. Questo è l'altro presidente, in realtà io il presidente ne ho due, così è con l'eco e così è senza l'eco, però l'eco gli dà una bella sferzatina, gli aumenta anche un po' la modulazione. K, sì, ho visto. Ma se non è fastidioso lo vorrei collaudare, appena appena lo vorrei lasciare un po' in funzione per farlo funzionare, dai. Va bene, vado in bagno, riprendi a to, ciao, a dopo. Voglio assegnare che vai con la giusta inconveniente. Te l'ho detto, sto provando una coppiata parecchio più alto. È come il tuo, RM Italy però. Il tuo c'ha la buccia del 747, dai, a dopo, che mi scappa, ciao. Cappa, dai, vai. Bello, bel segnale pure, complimenti. No, bello forte come segnale. Cappa, sì, no, c'è un bel segnale, ciao, veramente buono il segnale. Adesso voglio mettere l'87 un po', che sempre è quello, sempre il bremmo. Qui non viene. Il presidente. Ah, il presidente sta usando. Cappa, aspetta un attimo che attacco un'altra radio. E te bala. Antonio sta cambiando radio. Aspetta un attimino che vediamo cosa cambia. Ma con chi stai parlando? Buongiorno. Danilo, tu chi sei? Io chi sono? Carlo Spardiero, chi devo essere? No, ho detto con chi stai parlando. Ah, Vecchio, con Antonio. Eccomi. Ah, gappa. No, pensavo che stavo uscendo male, non mi avevi riconosciuto. No, è che stavamo parlando poco fa con un altro, però non mi ricordo il nome. Avanti, Antonio, buongiorno a tutti e buona domenica, avanti. Ehi, ecco qua. Claudio, mi senti? Lì forte e chiaro. Cappa, adesso mi ho messo un po' l'87 a farla andare. Sto uscendo benissimo, alla grande. Cappa, il segnale è forte da te. Sì, 9.25, radio 5. E già va bene, dai. La mazza che ti ne guarda. Ora. Così tu banda un po' meglio. Ah, va bene, tu. Avanti, Dani. E che c'è? Solo voi qua? O qualche altro c'è? Ce n'era un altro, è andato a dare a mangiare, a cucinare per i cani. A cucinare la panzetta dei cani. E l'altro, non mi ricordo come si chiama. Romino. Vabbè, in quattro eravamo, in poche parole. Cos'era Dani? Non ho capito. C'era Tonino, c'era. Ah, Tonino c'era. Andava a mangiare i cani, è andato. Gappa. Saluto anche a lui allora, se ne sta ascoltando. Gappa, ha detto che è andato a mangiare la panzetta e da un cane. Certo, lui li tratta bene i cani. Ah, sto uscendo bene, sì. Ma cannonata sei, no? Che... Va bene, meglio così. Non riuscivo a capire se stavo andando, perché qua non si vedeva niente muoversi. Dio Claudio. Chi è? Chi vuoi che sia? Non ti ho mai sentito che tu trick e tracche. Ehi, trick e ballacche, dai. Stavo provando una coppiata baraccocco e altro. Sto provando tutte le opzioni. Ciao, ben sentito. Sono stato a salutare Bombolo e Danilo e un po'. E sono un po' l'ascolto, dai, riprendi. No, va bene. Segnale, già l'ho visto che sei al top. No, la radio è bella, bellissima, anzi, ti direi. Però no, non ti avevo riconosciuto a primo impatto, là. E poi per l'eco io non lo uso, so, senza eco, e vabbè, e poi c'è il bip originale, tutto lì. Questo è l'altro presidente, io in realtà non ne ho uno, ne ho due di presidente, questo è un modello molto inferiore, però funziona. Vai, riprendete e vi ascolto un attimino, qua c'è un freddo, sono in pigiama, mi sono alzato da poco. Ehi, gappa, no, stai uscendo benissimo Marco, non c'è problema. Vai Dani, riprendi Dani. Mi sto sistemando un po' i torugli, che mi servono due torugli per farmi quell'antenna là. Ah, ho capito. Vai Anto, riprendi. Cappa. No, è bello comunque quel presidente c'è solo AM/FM, questo è AM ed FM, e questo aveva tipo circa 15 watt AM e 40 FM. Per la barra mobile va anche bene, perché ti dà quei pochi watt in più che ti fanno guadagnare da mezzo Santiago a un Santiago quasi. Fa la grande, va. Cosa, Antonio? Non ho capito. Ho detto che fa la grande. Ma quale, la mia o la tua? No, quella di cosa, di... vabbè, anche la mia dovrebbe andare bene. Ma adesso non mi viene il nome. Ah, quella di Danilo, di Marco. No, che andano tutti bene, non c'è problema. Gappa, gappa. Ruia. E beh, come ci stai andando tu? Io mi adesso sto tornando. Sono andato a vedere a che punto siamo e tutta la settimana prossima ci vuole ancora. E poi iniziamo a portare via un po' di roba, dai. E a chi? A travagliare il burro la domenica? No, beh, non ci sono, oggi sono andato appunto a vedere a che punto erano. E ancora non hanno finito. Gappa. E momenti! No, già. Già sono seri, là. Piano piano, i lavori vogliono fatti quando c'è qualche problema. Tu, un'impresa, non è che è un operaio singolo, è un'impresa, quindi quando ho finito, vado. Omaggio Blessa da Giuditto, omaggio Carabinieri alle calcagne, capito? Anche se qualcuno pensa al contrario, ma già non è così, non ti preoccupare, adesso il mio nome ancora. Capa, e chi te lo sta facendo? È un'impresa di Sassari, ma non te lo dico chi era. Un'impresa di Sassari. È quella che ha fatto tutte le, praticamente le case vicino, là. Ah, ho capito. Non conosce un padrone mio che verrà. Cosa? Il mio padrone di casa ce l'ha l'impresa. E vabbè, ma impresa di cosa? Impresa costruzione. Ma grande. Non conosce a farmi. Vanni Alzena a Sassari, è conosciuto bene. No, Vanni Alzena, no, Vanni Frau, conosco il geometra Frau, quello che ha costruito tutto lì in via Pirandello, Sassari 2, quello sì, ma questo Vanni Alzena no. È uno degli impresari a Sassari che attualmente è più nominato, cioè, cavolo, è una persona seria, là. Vabbè, Anto, non ti posso dire chi è qua, ma... Io penso che abbia almeno 200-300 operai. C'è un'impresa enorme, grandissima, un grandissimo impresa. Comunque vabbè, a prescindere, non mi interessa. E beh, Dani, quindi cosa stai facendo? Ti invio una foto, là. Gappa gappa. No, giusto così per capire. Per capire. Se me lo dicevi, che se ne ho dato poco di antenne, bastava parlare. Andavi. E dimmi. Io ho detto, non avevi antenne. No, ma ne sto facendo una a parte. Cappa. Ne ho una, dammi, l'altro giorno l'ho riparata, no. Dovrebbe andare che l'ho schioppettata. Quella lì. Ma già ve l'ha giudito, però, un telefono, la ghiso. Quello della LEM, cosa succedeva? Cosa ti sagro, le stazionarie? No, si è staccato in una che c'avevo io. Si è staccato il petto centrale, ma gliel'ho detto però, Detto mi faceva sapere, ha voluto il mio numero di telefono. Allora, vediamo. No, questa non li fa niente, questa la sta sempre andando. Ehi, meglio, meglio. Meglio che vada, senza problemi. È come questa che ho adesso, sta andando senza problemi, meglio, così meno si toccano e meglio è. Ma io l'ho riparata però, No, io questa qua l'ho solamente sollevata. No, una volta che l'ho tutta quanta schiumata l'ho lasciata così com'era. E chi si sono autocostruite, cioè? No, ma io la mia, come si dice, la mia Ringo, l'altra, ha avuto un problema che si è staccato il pezzo centrale, allora io ho preso un bullone, gliel'ho gelato, vi dai di corso controparte, cavolo si stacca più, quella se la metto sul tetto, dura una vita, dura, anche perché è molto grossa come antenna, non è come questa, è più fine, quella è molto grossa, Grossa tipo diametro? Diametro non lo so. Le trovarti, Scappa, grossa, questa è più fina però. Però non mi ha dato problemi fino adesso. Mi sembra sia a tre quarti l'innesto lì. Non lo so, cara. Dalla foto che mi hai mandato così a occhio tre quarti. Poi tre quarti ho mezzo pulli, cioè ce l'ho così, a occhio mi. Ma chi sei tu, Sammy, però? Adesso con la ruota, cavolo, sono caduto, la metto sul tetto. Ma il curvento chissà ne la fa più, perché... Insomma, perché lo... è solida adesso. No, vabbè, per l'uso che ne fai tu di quarantenna è più che sufficiente, già va bene. Scappa, questa ancora non mi ha fatto nulla. Vabbè che il babbo l'ha fatto già nuova nuova, Vabbè, già mi ricordo, va bene. Vabbè, ma andate a me questo botto, Dani. Cos'è, Cra? Che ero lontano? Ho detto se me l'hai mandata questa foto. Ma adesso te l'invio. Stavo mettendo a posto i turbidi dentro la scatto. Si conferma. Ho sentito a Luca, ha detto che non va bene il microfono. Infatti mi dispiace un bel che non è compatibile con quella radio. Perché va a innescare? È strano, brutto. Avrei voluto provare sul Galaxy io, a vedere se va bene. Beh, io ce l'avrei voluto sul Galaxy ed era perfetta. Era tranquilla con quella radio. Vabbè, fatto provare, poi magari ci vediamo e lo provo io a vedere se va bene sul Galaxy. Possiamo fare anche così, così le togli un pochino di polvere che si è formata, dai. Non c'è problema, la linea lo c'è. Lo proviamo, se va bene sul Galaxy me lo tengo, non c'è problema. KK, tanto c'ho un MP3 sul Galaxy e anche un MB5 c'è, quindi non è un problema. K e poi K, ragazzi, c'è un freddo fuori allucinante, c'è uno spiraglio di sole, ma è pur certo che all'ombra è un bel di freddo. E a Sobbiogli io? Sino io, non Gianluca. Ah, fatti nulla, qua si sta troppo bene, entra ogni tanto, entra il sole e si sta bene. KK, e che antenna è questa? Una cubica è questa? La cubo web. Ah, sì, mi dà la cubica. Tutta fatta in rame? No, i tubi sono in vetroresina. I tubi lunghi sono in vetroresina, poi tutta quanto il resto è in rame, in dubbino. Sì, beh, la struttura è chiara dove si è in vetroresina. Dalla croce in vetroresina poi si vede il sistema, è tutto in... con i morsettini, con la morsettiera, è tutto il rame, sì, l'ho già vista fatta così, sì. Va bene, ottimo per la truppa. Un po' di lavoro c'è sopra all'inizio, tutto quanto dove ci sono, dove c'è la scatola, dove partono tutti quanti i cavi. Tutto il lavoro è lì, poi tutto il resto è una passeggiata. Già va bene, Dani, almeno l'hai fatta tu e va bene così, dai, non c'è problema. Infatti, quando ti fai le cose tu sono diverse. Certo che sì, ci mancherebbe altro. L'autocostruzione è sempre una bella cosa, dai. Non è che sia una capace. L'autocostruzione è sempre bella da fare. Cappa, è bella, sì. Dai, Bianco, per me, ci sentiamo dopo. Ok? Ehi, raga, Bianco anche per me, perché sono arrivato adesso mi sistemo e poi organizziamo il pranzo. Dai, se coincide ci sentiamo stasera, ok? Buon pranzo a tutti, anche a quelli che ascoltano, e ci sentiamo stasera, ok? Ciao Danilo, ciao Antonio e KK. Ok, dai, adesso chiudo anche io. Ci sentiamo più tardi se vogliamo entrare, se no ci sentiamo la prossima. Ciao a tutti, ciao. Ehi, Dani, la stessa cosa ti dico, se ne ho voglia stasera, vai, altre due chiacchiere, se no alle prossime. Ciao a tutti, buon fine domenica, ciao. Ciao, ci sentiamo.